La formazione professionale. 32. Visto che il lavoro ordinario, secondo lo spirito dell'Opus Dei, costituisce il cardine della santificazione personale e l'ambito abituale dell'attività apostolica dei suoi fedeli, si comprende perché nella prelatura si stimoli una buona preparazione professionale. Lo studio, la formazione professionale, quale che sia, è obbligo grave fra noi. In tempi recenti il Magistero della Chiesa ha affrontato il tema del lavoro e tutti noi leggiamo questo insegnamento pensando alla predicazione di San Cosimaria dal 1928 come ambito per la ricerca della santità da parte dei fedeli laici. Il Magistero ha insistito nella formazione di una spiritualità del lavoro, tale da aiutare tutti gli uomini ad avvicinarsi per il suo tramite a Dio Creatore e Redentore, a partecipare ai suoi piani salvifici nei riguardi dell'uomo e del mondo e ad approfondire nella loro vita l'amicizia con Cristo. Il lavoro è l'unità di vita. 33. Nell'omelia Amare il mondo appassionatamente, San Cosimaria ha ribadito l'importanza per un cristiano dell'unità di vita, che armonizza la pietà, il lavoro e l'apostolato. Ho insegnato incessantemente, con parole della Sacra Scrittura, che il mondo non è cattivo, perché è uscito dalle mani di Dio, perché è creatura sua, perché Yahweh lo guardò e vide che era buono. Siamo noi uomini a renderlo cattivo e brutto con i nostri peccati e le nostre infedeltà. Siatene pur certi, figli miei, qualsiasi specie di evasione dalle realtà oneste di tutti i giorni significa per voi, uomini e donne del mondo, il contrario della volontà di Dio. Dovete invece comprendere adesso, con una luce tutta nuova, che Dio vi chiama per servirlo nei compiti e attraverso i compiti civili, materiali, temporali della vita umana. In un laboratorio, nella sala operatoria di un ospedale, in caserma, dalla cattedra di un'università, in fabbrica, in officina, sui campi, nel focolare domestico e in tutto lo sconfinato panorama del lavoro, Dio ci aspetta ogni giorno. Sappiatelo bene, c'è un qualcosa di santo, di divino, nascosto nelle situazioni più comuni, qualcosa che tocca a ognuno di voi scoprire. Non vi è altra strada, figli miei. O sappiamo trovare il Signore nella nostra vita ordinaria o non lo troveremo mai. Per questo vi posso dire che la nostra epoca ha bisogno di restituire alla materia e alle situazioni che sembrano più comuni il loro nobile senso originario, metterle al servizio del Regno di Dio, spiritualizzarle, facendone mezzo e occasione del nostro incontro continuo con Gesù Cristo. La formazione che dà la prelatura tende a stimolare il necessario spirito soprannaturale affinché ciascuno si impegni a compiere il lavoro con la maggiore perfezione umana possibile e con anelito di servizio, trasformandolo in uno strumento di santità e di apostolato. Perciò dobbiamo sforzarci di raggiungere il necessario prestigio professionale tra i nostri colleghi e questo si acquista con l'impegno e la dedizione nel corso degli anni. Ognuno riceve questa formazione specifica come gli altri cittadini, nelle università, nelle scuole tecniche, nelle officine, eccetera, dove compie gli studi o impara un mestiere. Lo spirito dell'opera ci spinge a conservare e migliorare continuamente tale preparazione. Tutti noi sappiamo di essere liberissimi, sia nel momento di scegliere la professione che di esercitarla. L'opera insegna soltanto il modo di santificarsi in queste attività, senza immischiarsi nelle scelte di lavoro di ognuno. Non importa il tipo di attività che si svolge, purché sia onesta. Che cos'è più importante, essere professore alla Sorbona o fare i lavori di casa? Ti dirò che se tu sei santa, perché ti stai santificando nel lavoro, è il tuo il più importante. In un altro momento aggiungeva: quando, riferendomi alle donne delle pulizie che lavorano all'Università di Navarra, affermo che non so se il loro lavoro è altrettanto o più importante di quello del Senato accademico. Non faccio una battuta, ripeto semplicemente ciò che ho sempre pensato. il lavoro di una di queste donne che assolve i suoi compiti con gioia e fa tutto per amore può essere eroico, mai comune, e sicuramente più efficace di quello di un grande ricercatore che pensa soltanto a pubblicare i suoi studi. Ripeto, quale vale di più? Dipende dall'amore e dal sacrificio con cui si compie il proprio lavoro, ma che sia un sacrificio gioioso, allegro, volontario. In caso contrario, è meglio non farlo. A tutti i cattolici compete il dovere di fare tutto ciò che è in loro potere, perché Cristo regni effettivamente nella società. E questi santi desideri si manifestano anche cercando di acquisire il necessario prestigio professionale, come un lucerniere che deve far risplendere la luce di Cristo. Gli studenti, da parte loro, devono sentire il dovere di ottenere buoni voti. Non dimenticate la considerazione che San Josemaria scrisse in cammino, che è servita da guida a tante generazioni di giovani nel mondo intero. Un'ora di studio, per un apostolo moderno, è un'ora di orazione. La rettitudine d'intenzione. 34. Mentre curiamo la preparazione professionale, ricordiamoci responsabilmente che l'attività lavorativa, qualunque essa sia, costituisce sempre per noi un mezzo per raggiungere la santità e per fare apostolato. In questi momenti è quanto mai necessario non perdere di vista tale obiettivo, perché nella società di oggi, altamente competitiva, è facile mettere la professione al primo posto dei propri obiettivi al di sopra degli altri doveri verso Dio, verso la propria famiglia e le altre persone. Ripeto con nostro Padre, lavorate alla presenza di Dio senza ambire glorie umane. Alcuni considerano il lavoro un mezzo per conquistare onori, per acquisire potere o ricchezza che soddisfi la loro ambizione personale o per sentire l'orgoglio della propria capacità di operare. Noi figli di Dio nel suo Opus Dei non vediamo mai nel nostro lavoro professionale qualcosa in rapporto con l'egoismo, con la vanità e con la superbia. Vediamo soltanto una possibilità di servire tutti gli uomini per amore di Dio. Perciò aggiungeva, un buon indice della rettitudine d'intenzione con la quale dovete compiere il vostro lavoro professionale è proprio il modo in cui utilizzate le relazioni sociali o di amicizia che nascono durante l'attività professionale per avvicinare le anime a Dio, arrivando, se è il caso e qualora se ne intravedano le opportunità, a proporre loro la vocazione. Nell'ambito della preparazione professionale dobbiamo cercare necessariamente di conoscere bene gli argomenti della dottrina cattolica più legati alla nostra professione o che godano di particolare attualità nel Paese, forse diversi da un luogo all'altro, ma alcuni validi da tutte le parti. Per esempio, quelli legati al matrimonio e alla famiglia, all'educazione, al Vangelo della vita, alla bioetica, alla giustizia e alla carità nei rapporti di lavoro. Per questo, l'esempio di rettitudine nell'adempiere ai doveri professionali, familiari e sociali costituisce una testimonianza incontrovertibile che tutti dobbiamo dare. Come conseguenza della vostra rettitudine umana e cristiana, vi ho scritto, negli ambienti nei quali vi muovete nasceranno inoltre molte iniziative volte a risolvere concreti problemi sociali, in nobile e fraterna collaborazione con altri uomini e donne di buona volontà. Levo in questi momenti il mio cuore in azione di grazia a Nostro Signore, perché intorno alla prelatura, con l'aiuto di tanti cooperatori cattolici e non cattolici, fioriscono numerose realtà di solidarietà che contribuiscono a instaurare la giustizia e la pace sulla terra, portando a decine di migliaia di persone, come diceva nostro padre, il balsamo forte e pacifico dell'amore. La spontaneità apostolica. 35. Figlie e figli miei, ho voluto sottoporre di nuovo ai vostri occhi la verità che l'unica ambizione, l'unico desiderio dell'Opus Dei e di ognuno dei suoi figli è quello di servire la Chiesa come la Chiesa vuole essere servita, nella specifica vocazione che il Signore ci ha dato. Assai spesso San Josemaria si riferiva all'Opus Dei dicendo che è una disorganizzazione organizzata, perché il modo caratteristico voluto da Dio di collaborare alla missione della Chiesa consiste nel dare formazione alle persone nei diversi aspetti. Si può affermare che la prelatura dell'Opus Dei spende tutte le sue energie in questo compito, in questa catechesi. Poi voi, donne e uomini, singolarmente, con il bagaglio della preparazione ricevuta e assimilata, con libertà e responsabilità personali, fate in modo di infondere la linfa dello spirito cristiano nel torrente circolatorio della società. Rispondendo alla domanda di un giornalista su questo aspetto così caratteristico dell'opera, nostro padre spiegava che «Noi attribuiamo un'importanza primaria e fondamentale alla spontaneità apostolica della persona, alla sua libera e responsabile iniziativa sotto la guida dello Spirito, e non alle strutture organizzative, agli ordini, alle tattiche e ai programmi imposti dall'alto in sede di governo». Prima di concludere, ritorno all'aspetto fondamentale. Impegniamoci, giorno dopo giorno, nella nostra dedizione cristiana a Dio e agli altri. Sforziamoci di essere donne e uomini fedelissimi al Romano Pontefice, pregando con continuità per la sua persona e per le sue intenzioni. Pratichiamo una affettiva ed effettiva unione con i vescovi e con tutti i fedeli cattolici. Riempiamoci di ottimismo e di gratitudine verso il Signore, partecipando alla nuova evangelizzazione. Ricorriamo all'intercessione della Santissima Vergine, Regina del Mondo e Madre della Chiesa, affinché ci ottenga dal cielo le grazie necessarie. Come logico, poniamo come speciale intercessore di tutta la nostra attività formativa San José María, che con la sua vita e i suoi insegnamenti ha lasciato ben plasmato lo spirito ricevuto da Dio il 2 ottobre 1928, perché le sue figlie e i suoi figli e molte altre persone possano percorrere tutti i sentieri della terra facendoli diventare divini con la grazia dello Spirito Santo. Con tutto l'affetto vi benedice vostro padre Javier. Roma, 2 ottobre 2011.